companansi den su lucia contra grauatamento. Tiru di caion a resonà, sirena a pita, trompet, cornetin e tambunan a cominciar a toca. Sean Array abula lanta foi su cama, su pijama di satinta da papa papa muha di tanto sodò. E temblando con man all'aria, ella grita: Revolution! Revolution! La reina la mantà e non perde tempo. Coge bocacci di prenda, inchedembo bus, pa nos hui vai Cuba. Ai, esta un pueblo ingrato. E sempre mi tava da un tata panan e abo un mama. Ai! La reina comincia a rari te, hic. Ella bula lanta, abbraccia suo esposo, sonce arriva su frente, arriva su nanisci, cada banda di su cara, e arriva su bocca. Mi son arreggi, mi tesoro, mi berenghenti e naco oro. Ta congo porta fino a bobo, a ovita celebra bo aia nobo. Son arrei, a rari un tigre confus, e ella pini bei. È verdà. Tabata dia je 5 di December, anya di la reina di Sean Array. 55 anya Sean Array a cumpiawe. La reina a abrigashi, coge un paqui lorrado en papel di plata con un streki grandi di felpa corratima. Mi Sean Array, mi pampuna, mi pastiche di calacuna, por fin hai un costo regalabu. E mi da spera che lo contentavo. Sean Array allos estrechi, chite papel, abbie pacchi e la saca tre par di mea. Un corrà, un gel e un blau clà. Sean Array assunci la reina e agradisce. Mesora Sean Array abisti e par di mea blau clà capaz perfettamente con su pigiama gel colò di anglo e su kimona corrà colò di tomati. Sean Array a abri porta e apparse riba balcon di palacio. Jardin di palacio tata yen yen di mucha, tur vistina blanco, turna sharp cu streki e cu bandera di colonan real, corra, gel e blau clà. E mucha nan a cominsa canta himno nacional. Sean Array di sangre puro nos guía de escuridad. Nos abraza duro, duro, ya vete de eternidad. Dios salva Sean Array, la que queda, mei, mei, mei, mei, dinos. Vámonos, mucha nang di patria, avea llega, día di gloria. Nos reita un barranca, su pueblo tastime. Nos amor pa botasina grandi, continada pa quibre. Y si morto iba mi leu for dimitera, tapa mi cadáver que bandera tan stima. Viva, viva Sean Array, viva, viva Sean Array. Para manera un emperor victorioso que acaba de ganar una guerra, Sean Array acepta el homenaje de juventud. Sean Array abre su boca para agradecer a mucha nan. Y ahora su gente nan de oro alombra de un rayo nan de solo, cada palabra que sale fue su boca aparece un placa de oro. Juventud aprecia de nos patria estima. Bosso Sean Array ta masha emocioná. Di bosso cantica, cu ainda ta zona, den su corazón, baudi su pijama y su kimona. Awe, enter mundo porta testigo, cu nos pueblo y su corona, no ta enemigo. Cu enter nos pueblo y su Sean Array, siempre lo queda, ney cu ney. Laga mundo mira, cunos isla natal, ta adorra su familia real. Si un familia nos ta, te seita nos fama, son Array ta papai y la reina ta nos mama. Te sei mi pueblo, mi yunan stima, awe vos turta convida den jardín di palacio, pajari y goza, di grauatamento den bringamosa. Come e bebe e fiesta contento. Nobira buraci, pano timbringamento. A war shon arei tabai kita panya, pasota shon arei su ora di banya. Un or di merdia, fiesta a cominsa di berde. Tur hende abbascia drenta jardin di palacio. Ta claro co companansi, si Maria, Pegasaya, Zipopo, Popo Suwecchi, Keremace, i tur e otro yunan, tambe abin gosa e provecia. Shon arrei allaga dorna tur palo e tur mata din su jardin cu bandera e serpentina. Ai, si Maria sma tur cos duci e alla soro pa tur su yunan iena nambarica. Well, well. Aube si chuarei no aha si coi piciri. Pansei cu concerta co caba. Ci quere macia bin, atun chupa bebe pabo. Pega saia, come quanto tenta l'aria co boche. Zanzi dui, purba e balci di biscacchi, ma sha bon. Anto mira cala panosei. I pasteci, vel vel. Cavatin. Circo cu payaso, cu tasi tur storto di kenshi, para arriba cabes, cano cu man, e te asta spreit aua fina orrea. Ai, si può puntati in basta uope, ueta. Mira, mira mamai, e cacionan eta pret. Mira, mira e sun cu su dashi pusi e su castol. Anto mira e otro cu su saia di tuvil ros. Te conan porcana arriba dos pata? Atta, mira non pur baglia tambe. Anto a vuor danza baicana arriva e cordon di oro. E, nanta mescos cu hende. Anto e macaco cu su flus corra, e ta comic. Atta a vuor e ta bai tocca cai orgel. Seis cabai blanco cu pluma verde rima nan cabes tava da core tras di otro formando un ballet cu tur sorto di figura. Tambe tava din tur sorto di co straio di ueta. Un hombre cu dos cabes, un mue cu bigoti e barba tenasuela, un mucho cu tapisa, sei shin liber, un carne cu cinco pata, un pusci cu tres rabu e te asta un giraf sin garganta e pobre. Music tata zona, cabaitu tata drei, cuminda tata hole duci, serbes tata scuma e henanan tata hari e pasa pre. Quator, exactamente, clocnan a comisabati pa anunciar e atracción di más importante. E lucha contra gravatamento. Tabata idea di Sean Rey pa organizar un competición. Es un cupor queda, por lo menos, 5 minutos de embringamosa, sin gravata su culpa, lota campeón y lo recibí 3 premios. Un vaca grande y gordo, un saco yen de placa de oro y un copa de plata con inscripción. Estaba din 3 candidatos para tomar parte en el concurso difícil aquí. Compa Criqui, compa Cese y más cu claro, compa Nancy. Trompet a zona y Sean Array alza su voz. Atención pa promé candidato, compa Criqui. Compa Criqui abejo pa Sean Array y abejo pa la reina. Compa Criqui alaga y serbete caifo y su lomba y el asambuyade de bringamosa. Mesora enter su curpa cominzata grauata y el grita di dolor. Ay, ni un minuto pasa y ya compa Criqui abula salifi de bringamosa bo grito di lamento. Ay, mi curpa queda yen di llaga. Llama ambulancia, llama doctor pa iba a mi hospital. Puebla comisada grita, bu, bu, y Sean Array la reina a haricus mac, y Sean Array a volve lanta para. Atención pae di 2 candidatos, compadre Cese. Compa Cese, aquita su sombré y estambe abeja. e la hal rossea in riva su tenci di pia e la drenta e bringamosa. Su curta cominciata pic, casi ha sia loco. Però cordando e premio nanculo e porgana, compasese addomina su mes, mas che gente or su curva tata corra corra. Un minuto a passa. Dos minuti a passa. Però massa leu compasese un llega. Ella cominciata a grauatarsi un po' stop. I guau na uovo e misera core sali fuori di bringamosa. Puebla volve grita bu bu e a trovescion a rei a Harry e la reina asta a gira di piscicarso. Sion a rei a dalla reina un clapriva su chan e denso re la bise poco poco sina. La reina, mi flor di caramel, ma yang mes mi te regalavo e renci di diamanta come da angela. Ta soprattutto un ti ningun hende cu porgana e premio nan di e lucia contra gravatamento. I Sion a rei abira su cara pa pueblo e ela annuncia e di tres candidato. Attention, attention, nostra continua nos competition. Compa Nanzi e di tres compinci l'onno gravata nin su pilingi. E ta preferra di cap su man e bes di gravata su chan chan. Compa Nanzi apparse di lanti di su maestatnan i pubblico. Con su man robes e la chita e serbete fuori su scover di re a bona suela maniera un torrero. E con un zuai elegante con su man dreci e la chita su sombre e bejo maniera un moschetero. E la queda dentro su carzon cortico di satin colò di oro con scimaria a cose specialmente pediache. Con pananzi adrenta bringamosa. E mesora e la comincia a canta e balia. Mi mamma assignami, cu papa Dios anami, dos pia elegante pa mi por balia tumba. Saca pia paqui, saca pia paia, saca pia bira ron, mira mi balia rumba. E mentre compa Nanzi tava da saca pia e tava da provecia di grauatà. Mi mamma assignami, cu papa Dios anami, barranca di chan chan, pa balia simadan. Yanga paki, yanga paia, yanga iongota, yanga birarront, i bula cha cha cha. E mientras tanto, companzi tata gravata su chan chan. E shon a rei, la reina e pubblico tata batiman segon Nanzi ta canta e balia. Mi mamma assignami, cu papa Dios anami, dos cauder cu balanza, pa sacudi un danza, cabescu cacete noble, pa corre passo doble, barrica lomba rodia, pa balia un bon cadria. Mirra chi mi voca, nanni scirribage, dos uovo fa mi mirra, o rei a patende. Mambo mazurka me recumbe, samba corropo me recumbe. Un tin un balia la mundo, cu compa Nanzi no a balia, te asta jive e rock and roll. E mientras tanto, e la gravata tur parte di su curpa che la menzionate in su cantica. Ora hoppi mas, cu 5 minuti a passa, compa Nanzi a sali fuori di bringamosa, e pueblo a cominciare a grita, viva Nanzi, viva, viva Nanzi! E Sion a rei a entregar compa Nanzi e coppa di plata cu inscripcion, e bacca grandi e gordo e sacco cu placa di oro. A noci, de in sala grande di palacio, stava di fiesta di gala. Mascu claro, cu compa Nanzi come campion stava da convida e la parse den su tuxedo. E mientras pafò den jardin, pueblo stava da admira virwerk e balia tambù, Nanzi allanta la reina pa balia mazurka.